Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Letizia Moratti, quando presenterete al governo queste 10 proposte a cui siete arrivati? Noi pensiamo di fare una consultazione online rispetto a queste 10 proposte per integrarle, arricchirle e presentare poi queste 10 proposte nell'arco di un mese al governo. Può darci una data? 15 luglio. Ecco, era Letizia Moratti, avete sentito, le 10 proposte di cui parla e che porterà il Premier Renzi sono emerse dal Forum dell'Economia Positiva, il movimento guidato da Jacques Attali che si propone di offrire regole ai governi per un cambiamento dell'economia globale a dimensione umana. Marina Milone è andata per noi a seguire i 3 giorni di lavoro di questa Economia Positiva. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 per chi volesse intervenire. Prima non avevi tanta voglia di raccontare di te? No, perché mi vergognavo. Perché alla fine la mia è una storia di tossicodipendenza che è iniziata anche abbastanza presto. Ho provato per la prima volta la cocaina a 13 anni dentro uno spogliatoio di calcio. Sì, perché ho sempre giocato con i ragazzi di 1 o 2 anni più di me. È capitato che me l'ha chiesta la persona giusta al momento giusto e diciamo che ho preferito non scegliere che fare una scelta e quindi mi sono adeguato. Ho sempre pensato che la comunità a me non serviva, perché comunque poi l'ho imparato più tardi, questa qui è proprio nella mentalità del cocainomane, convinto che riesce a gestire tutto, che lui non è un tossico perché non si buca, perché non usa l'eroina, perché si fa la doccia, perché va a mangiare fuori. Mi ama e butta fuori di casa, io faccio 3 anni in cui praticamente faccio tutte quelle cose che fanno i tossici, rubo, gli scippi, un sacco di cose di cui mi vergogno profondamente. E mi ricordo una volta, a 22 anni, decido di tornare a casa, sento mia madre che piange. Era un pianto strano, era come se quel pianto non avesse mai fine. Era un lamento, una cosa che, cioè, lei mentre respirava piangeva, faceva, cioè, non era seduta sul divano e piangeva, lei praticamente piangeva sicuramente dalla mattina. E lì mi sono reso conto che quel pianto doveva finire. Era la voce di Momo, uno dei 1300 ragazzi che vivono a San Patrignano. All'interno di questa avventura di vita vissuta si è svolto il forum sull'economia positiva, un'economia che vuole essere al servizio dei soggetti deboli e delle future generazioni. Un movimento fondato da Jacques Attali, invitato dalla cofondatrice della comunità di San Patrignano, Letizia Moratti. Io credo che noi abbiamo assistito a una crisi della finanza che ha poi contagiato l'economia reale, colpendo i più deboli, e quindi siamo in un cambiamento d'epoca, siamo in un momento nel quale o cambiamo anche gli strumenti o non riusciremo a far fronte alle esigenze, ad esempio, di welfare sociale che nel nostro paese, come in tutti i paesi, esistono. Io dicevo sempre si vive una volta sola, però alla fine ho realizzato che quella volta sola magari conviene viverla al massimo, godendoti ogni attimo, perché ho imparato veramente che le cose quando se ne vanno e non hai avuto la possibilità di godertelo, ti sei rifiutato di godertele, è brutto. Quindi un'economia basata sull'altruismo razionale che rispetti l'ambiente e che utilizzi strumenti di finanza sociale. Il movimento è partito a Le Havre nel 2012 e a San Patrignano ha fatto la sua prima tappa italiana. L'Università di Bologna ha fatto uno studio prendendo a campioni giovani che erano usciti da più di 5 anni dalla comunità e il 70% si era salvato. Aveva una vita normale, non era ricascato nelle dipendenze, aveva trovato un lavoro e faceva un'esistenza assolutamente normale, un successo pazzesco. Questo non esiste nel mondo. Qui vengono da tutto il mondo per capire come è stato fatto. Era Carlo Clavarino, presidente di AON. Con l'aiuto di finanziamenti esterni, la comunità è diventata una vera e propria cittadella che si autosostiene e produce benessere. Un esempio è il settore del vino. Su 260 ettari di terreno, 110 sono coltivati a vigna per una produzione di 500.000 bottiglie l'anno e 10 etichette diverse. Pietro Prenna, responsabile della parte commerciale. Sono responsabile commerciale, Seguo la rete vendita insieme ai miei colleghi, seguiamo i vari mercati estero e Italia, sia per quel che riguarda il vino che del comparto food, quindi parliamo anche di formaggi, salumi, prodotti da forno e tutte le produzioni del comparto food. L'esportazione di avi, in omaggio al fondatore Vincenzo Muccioli, coinvolge 13 paesi in tutto il mondo, di cui il primato è in Giappone. In Europa è presente in Svizzera, Germania, Inghilterra e poi ancora in Canada, nel Quebec e nell'Ontario. Il responsabile di questo reparto ne ha passate tante. Io sono arrivato a San Patriano nel 91 per mie vicissitudini personali. Io vengo da Taranto, dopo 10 anni di tossicodipendenza devastante e grazie alla forza di quella grande donna che adesso mi guarda dall'alto, che è mia mamma, che ai tempi appunto il suo coraggio, la sua voglia di non arrendersi la portò a rivolgersi ai fatti vostri, perché a Taranto non c'erano associazioni, non c'erano strade che mi potessero portare a San Patrignano. Come solo una mamma può fare, arrivò a crearmi questo ponte attraverso la RAI, non so come riuscì a prendere la linea alla trasmissione dei fatti vostri, e quindi si crearono i presupposti perché io entrassi in contatto con San Patrignano. E quindi l'incontro con Vincenzo Muccioli, 3 anni di percorso, come lo chiamano qui a Sampa, e poi una ricaduta. Il momento più buio della mia vita è stato quando io sono rientrato a San Patrignano. Perché quando sono uscito la prima volta non mi sentivo né carne né pesce, come si suol dire. Quindi quell'esperienza di 3 anni comunque aveva lasciato un solco importante dentro di me. E mi facevo per star male. In genere il tossicodipendente si fa e vive nel suo mondo, e nel suo mondo ci sta bene, per quanto paradossale sia o per quanto assurdo possa sembrare. Io invece mi vivevo dei conflitti incredibili, quindi mi sentivo fallito come persona, mi sentivo fallito come tossicodipendente, ed è stato un momento veramente devastante che, grazie appunto al riaprirmi di nuovo le porte da parte di Vincenzo, dove lui, io conservo ancora gelosamente quelle 2 righe dove mi dice: io sono dispostissimo a riprenderti senza problemi, però Piero, ricordati che affrontare i problemi significa andare fino in fondo, non fermarsi alla superficie. Tra queste esperienze reali legate all'economia positiva e la finanza che oggi la fa da padrona, il professor Jacques Attali ha detto: la ragione principale è che la finanza, per principio, dovrebbe essere a servizio degli altri, perché sono i soldi della finanza che hanno finanziato i progetti degli altri. Ma la finanza, come tutte le attività simili, ha la tendenza a lavorare per se stessa e non per gli altri. E quando uno lavora per se stesso, diventa folle. Per questo la finanza deve ritornare a essere un'attività sotto controllo. E non deve essere un mestiere che permette di fare profitto, dovrebbe essere un servizio pubblico. Un esperimento di finanza come servizio pubblico ha trovato in San Patrignano piena attuazione attraverso i social bond. Cosa sono i social bond? I social bond sono prestiti obbligazionari, l'impiego dei cui proventi viene rivolto a finanziare un progetto con ricadute sociali. Quindi in concreto che cosa finanziate? Cosa riuscite a finanziare? Beh, per esempio con San Patrignano, che è stato il primo esempio di nostra social bond, abbiamo finanziato la costruzione di 16 nuovi alloggi che ospiteranno 128 nuovi ragazzi. Quanto è stato l'ammontare che siete riusciti quindi a devolvere? L'ammontare di San Patrignano, attraverso l'emissione di un prestito obbligazionario di 15 milioni di euro, è stato come primo contributo di 90 mila euro. Allo stesso modo la pensa l'amministratore delegato di UbiBank, Victor Massià. Quindi la banca può essere anche qualcosa di positivo? Sì, oltre, come dicevo all'inizio, io rappresento i brutti, sporchi e cattivi, perché va di moda dire questo, ma in realtà sostanzialmente la banca deve essere qualcosa di positivo, perché non dobbiamo scordarci che la banca, commercia in una cosa molto importante, la fiducia. Noi compriamo fiducia e vendiamo fiducia. E San Patrignano cosa c'entra? San Patrignano c'entra perché è stato a sua volta un esempio di social bond, e anzi le devo dire, credo il più grande social bond, perché sono stati raccolti 20 milioni di euro di obbligazioni dedicate a San Patrignano, e con 100 mila euro quindi di liberalità è stato possibile finanziare un progetto ben preciso, che è la terapia PET, cioè quella che utilizza gli animali, per i giovani che fanno parte di questa comunità. Dunque, se di fiducia si parla, San Patrignano è il luogo che accoglie. Mio papà mi ricorda e diceva sempre che io non ce l'avrei mai fatta, perché sì, io ero parecchio testardo, mettiamola così, ero parecchio convinto di quello stile di vita. Però qui ho avuto un sacco di persone vicine, a partire da Osvaldo, che lo considero un padre, perché alla fine mio padre non è mai stato così tanto presente, poi tantissimi ragazzi che mi accompagnavano, diciamo, dai, nella mia quotidianità. Tua madre ti ha cacciato fuori di casa, ma poi adesso siete tornati in rapporto normale? No, il rapporto oggi con mia madre è anche molto bello, il suo era un gesto disperato e sostanzialmente se non l'avesse fatto forse oggi non sarei neanche qua. Molto spesso è quello con la madre il rapporto che influenza di più, nel bene e nel male, i ragazzi che si trovano qui. Ma ce n'è uno che ha una storia diversa. È arrivato a San Patrignano pur non essendosi mai drogato all'età di 6 anni perché i 2 genitori erano tossicodipendenti. Passati 5 anni, madre e padre tornano a Napoli, ma il loro amore non regge e la madre ricade nel tunnel della cocaina. Giuseppe decide di aiutarla, si chiude in casa con lei per 20 giorni di dolore. Il tempo passa e la mamma sembra farcela. Intanto Giuseppe decide di tornare proprio lì dove era cresciuto. Per me, come ho detto prima, è stato un ritorno a casa e avevo bisogno di ritornare nell'unico posto dove avevo vissuto gli unici momenti sereni della mia vita, e San Patrignano per me era la mia casa e c'è stato sempre in quegli anni un forte richiamo. Che cosa fai adesso? Adesso gestisco la pizzeria di San Patrignano, un luogo dove la mission è sicuramente essere una risorsa per la comunità che attraverso attività come la nostra si garantisce l'autosostentamento, e poi è un luogo dove si fa formazione, i ragazzi imparano un mestiere e poi si reinseriscono. Se questo è un modello di condivisione, esiste un'azienda italiana costruita su valori condivisi, è quella di Andrea Illi. Come traduce nella sua azienda i valori dell'economia positiva? Beh, la Illi Caffè è una stakeholder company innanzitutto. Stakeholder sono i portatori di interesse e si contraddistingue rispetto al modello della shareholder company, che sono gli azionisti, per il fatto che la priorità sono tutti i portatori di interessi. Quindi abbiamo una gerarchia chiara: consumatore, il vero padrone dell'azienda, cliente, che è il nostro partner per deliziare il consumatore, i collaboratori, senza i quali non avremmo né clienti né prodotto, il fornitore che ci dà il nostro meraviglioso prodotto che sogniamo diventa un giorno l'elisir della felicità, le comunità ed infine l'azionista che ha il sostegno dell'impresa. Ma come hanno reagito i ragazzi di San Patrignano a questo forum sull'economia positiva? Soddisfatta di questi 2 giorni? Sì, è stato insomma interessante, perché è sempre uno scambio, ti fa sentire anche meno sola, non intendo come persona ma come realtà, vedi che ci sono tante persone che hanno un'ottica, seppur in campi diversi, no? Perché abbiamo visto da imprese, banche, grandi brand, eccetera, però comunque la cosa che mi è piaciuta e che ho trovato comune è il fatto di non aver paura di ipotizzare qualcosa di nuovo, e anche la sensazione un po' comune che l'Italia è un paese fermo sotto molti aspetti perché si ha paura di cambiare, perché il cambiamento, l'innovazione costa fatica, e forse come paese, come istituzioni soprattutto, secondo me, siamo troppo pochi disposti a farla questa fatica. Noi nel nostro piccolo insomma cerchiamo di farla a beneficio dell'uomo in generale. Anche per Diana Bracco, presidente del Padiglione Italia dell'Expo 2015, San Patrignano è un modello. Credo che varrebbe la pena che San Patrignano si mettesse, virgolette, in vetrina, anche se non è questo il loro spirito, perché ho sentito oggi che ci sono diversi paesi che hanno preso il modello e se lo sono riprodotto, naturalmente adattandolo alle diverse culture. Quindi ritengo che metterlo davanti al mondo, perché non dimentichiamo mai che l'Expo è tutto il mondo che passa davanti all'Italia e davanti all'Europa, ma soprattutto davanti all'Italia. Quindi far questo è senz'altro potrebbe essere una grossa promozione. San Patrignano è un modello per l'Italia. e per l'Expo? Senz'altro è un modello di buon funzionamento, un modello di serietà, è un modello di innovazione. Vede che oggi per esempio ci è stato portato un tema che è la nuova frontiera, la Letizia Moratti mi ha detto è la mia nuova sfida, questa dell'economia positiva, è molto originale, sembra difficile, però io credo che sia applicabile il concetto dell'economia positiva a diversi settori, per esempio uno dove senz'altro applicabile è la salute, potrebbe essere. È un modello di convivenza. Secondo il rapporto stilato dal Movimento per l'Economia Positiva di Attali, l'Italia è ancora indietro. Proprio per questo sono fondamentali le 10 proposte emerse dal forum per diffondere nel tessuto delle imprese italiane il valore della condivisione. I punti riguardano le politiche demografiche, la finanza sociale, come valorizzare il terzo settore e poi ancora la misurazione dei comportamenti di impresa in funzione della positività. Infine, la valutazione dell'impatto sociale e ambientale di un'azienda. Letizia Moratti, quando presenterete al governo queste 10 proposte a cui siete arrivati? Noi pensiamo di fare una consultazione online rispetto a queste 10 proposte per integrarle, arricchirle e presentare poi queste 10 proposte nell'arco di un mese al governo. Può darci una data, visto che Renzi cita sempre date, giorni, fra un mese, fra un'ora, eccetera? Avremo bisogno di un paio di giorni per mettere online le proposte, iniziare, verificare come iniziare la consultazione, diciamo 15 luglio. Un applauso a Renzo Rossi. Grazie per avermi fatto vedere oggi la vostra realtà, è fantastica, non la conoscevo. La cosa più bella è vedere le vostre facce, il sorriso, gente positiva, sono un uomo positivo. Ho costruito dalla positività tutto quello che ho fatto, sono un figlio di contadini, sono partito dal niente. Mio padre voleva che qualcuno dei figli andasse a scuola, per cui non mi piaceva studiare, ho dovuto studiare perché gli altri due non sono andati. E così per caso sono andato all'istituto di moda e poi dalla scuola di moda è nata una passione pazzesca. Quando ho fatto il mio primo paio di jeans, l'ho cucito con la macchina cucita di mia madre. Ero entusiasta perché cioè, tipo era bassissimo di cavallo, cioè tipo non ci stava niente dentro, era strettissimo. Sono andato a lavorare per una piccola azienda che produceva moda all'età di 19 anni e sono ancora là perché poi l'azienda è diventata mia. Quello che volevo dirvi, arrivate da una cosa, ne fate un'altra, pensate se quella cosa vi piace, potrebbe diventare una passione. Ho sempre voluto fare nella mia vita qualcosa che fosse diverso da quello che esisteva, da quello che facevano gli altri. Mi è piaciuto il denim e ho cercato di farlo in maniera diversa. Quindi ho cominciato a strusciarlo, a usarlo, a romperlo. È stato difficile, perché ero arrivato in America, la gente me lo mandava indietro, diceva ma questo è fallato, una seconda qualità. E però credevo perché ero circondato di giovani. Ecco, questo è un passaggio fondamentale. La tua squadra, quando cominci a fare qualcosa, la gente che ti scegli deve essere gente che ti ama, deve essere gente con la quale ti senti di pancia. La mia filosofia è be brave, cioè ogni cosa tentare di pensarla, di vederla in visione moderna. Ma senza estremizzare, non serve andare a inventare il mondo, non serve, ma solo pensare questa cosa qua che esiste da tanto tempo, come potrebbe essere realisticamente più concreta, più attuale, più moderna? La gente normalmente non ha la testa per pensare a questo, è incredibile. La gente solamente vede le cose, vuole stare con quelle cose e non fa mai niente per cambiarle. Se fai le cose uguali a quelle degli altri, devi fare una politica di prezzo, devi batterti con tutti quelli che fanno le stesse cose e sarà difficile, sarà impossibile, a meno che tu non abbia un prezzo bassissimo, ma il prezzo bassissimo oggi è solamente per le grandi realtà, per le grandi industrie. Oggi la possibilità è per le piccole industrie, c'è la possibilità di fare business a qualsiasi livello, uno che vuole fare una cosa piccola può farla. Ma devi fare una cosa diversa dall'esistente. Quando i giovani mi fermano per strada e mi chiedono qual è il segreto del successo, non esiste un segreto, esiste solamente una volontà, un desiderio. Quindi tu, voi, noi, tutti, dobbiamo pensare dove noi siamo più forti. Individuare dove tu ti senti forte, su quella tua bravura, la vai a sviluppare. Io non ho mai lavorato un giorno della mia vita per soldi, mai. Ho solo lavorato perché mi piace quello che faccio, i soldi sono venuti da soli E quando tu fai quello che ti piace, è incredibile, non vedi ora che arrivano le 8 del mattino per andare a lavorare, alla sera non resti mai più a casa, cioè vivi con amore, con passione, con determinazione tutto quello che fai. Le ore che spendiamo al lavoro sono la stragrande maggioranza delle ore della nostra vita. Ecco perché è fondamentale avere un lavoro dove ti senti bene, è fondamentale che tu stia bene, perché quando vai a casa il tuo rapporto di positività continua. La nostra azienda abbiamo asili, palestra, campo da calcetto, da calcio, quindi è un mondo simpatico di lavorare. Non siamo un gruppo arrogante che ha dei margini altissimi come hanno certi gruppi stranieri. Abbiamo un margine per me democratico, giusto, per poter sopravvivere, e poi una parte di quello che produciamo lo dedichiamo allo sviluppo sociale. Per esempio, 2 anni fa abbiamo fatto un'operazione di microcredito per il terremoto. Questi finanziamenti da 5 a 55 mila euro a tutte start-up, a giovani, e vedere come le lettere che riceviamo di ringraziamento. Ma la maniera con cui lavoriamo è molto da economia positiva. Costruire qualcosa pensando al futuro. Oggi le aziende sono stressanti, massacranti, i fondi stanno comprando, investendo pazzescamente, quindi comprano le aziende, dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, 3 anni le rivendono e i manager sono stressati solamente a fare numeri e solo guadagnare soldi. Dov'è l'amore? Prima qualcuno mi ha fatto un'intervista e mi ha detto io voglio comunicare amore. Cazzo, ben venga, perché oggi c'è veramente bisogno. Tutta questa educazione positiva, i valori della vita, lo condividevo sempre ieri con Dalai Lama, non esistono più. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare a vedere a lungo termine. Piace citare Papa Francesco. Papa Francesco è fantastico. È arrivato il momento in cui la Chiesa stava andando a picco, dove praticamente chi andava in chiesa solamente perché diceva aspetta che prima di morire provo a vedere se riesco a salvare l'anima, quindi era un disastro. Arriva questo Papa ed è incredibile, comunicando solamente con amore, passione, cuore, come sta prendendo in mano il mondo. Quindi non più 4 vecchi sfigati, ma ricchi, poveri, giovani e vecchi, Papa Francesco sta veramente prendendo in mano la gente con la comunicazione, con l'amore. Mix 24. Ripariamo cucine e agosse. Portiamo. Mi faccio dormire che ieri sera sono tornato alle 5. No, mi faccio dormire, bravo. Mi sa che la metropolitana non c'entra. No, non c'entra, ma manca a farla apposta. A proposito di economia positiva, dell'inchiesta di Marina Milone prima, cade a fagiolo, perché io ho scoperto una cosa: che oltre agli automobilisti, oltre ai pendolari con i loro smartphone, oltre ai tassisti che sono nostri affezionati ascoltatori, ho scoperto che gli ambulanti, per tramite di SMS, per tramite di tweet, si fanno vivi, sono nostri ascoltatori. E quindi una dedica tocca a loro. Volevano dedicata questa canzone, che è quella degli ambulanti. Però se posso strappare voce al poeta. Devi. Avendo ascoltato prima l'inchiesta su San Patrignano, su l'economia positiva, vorrei dare voce al poeta con quello che veramente ami rimane. Il resto è scorie. Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Ezra Pound, un vero manifesto di economia positiva. Pietrangelo, te ne dico un altro di manifesto di Primo Levi. Amare il proprio lavoro è forse il più concreto esempio di felicità sulla terra, ce lo scrive Paolo. Che cosa bolle in pentola? Dimmi un po', paesano, quando costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della casa. Ok. paesà, complimenti. Domani vieni al consulato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fanno gli affari? Ok, vabbè, parlavamo di economia positiva, per cui no, ci compriamo anche la fontana di Trevi, basta essere Totò per venderla. Vabbè, insomma, però io segnalo una cosa, dove va l'economia? L'economia si sta spostando a Oriente, gli asset di ricchezza sono là, cioè anche qua ovviamente, tanta, ma si stanno spostando verso dove sorge il sole. E allora segnalo la guerra degli uffici in Asia. Ci sono tre grandi centri, Hong Kong, Singapore e Shanghai, che si contendono il primato di essere sostanzialmente il centro operativo della finanza e dei servizi in Asia. E a Hong Kong, questo la dice lunga, Citibank ha acquistato una torre per il suo quartier generale con 5.000 dipendenti. Costo dell'operazione, caro Giovanni, caro Pietrangelo, 697 milioni di dollari. Pensa, a Hong Kong gli affitti sono talmente alti, è seconda solo a Londra, che conviene comprare. Quindi se devi comprare a Hong Kong, investiremo lì. Anche tu, Pietrangelo, se dovessi comprare a Hong Kong, mi raccomando, ricordati degli amici. Ma cioè già è complicato comprare a Carrapipi, figurati a Hong Kong. Ma noi non compriamo niente, almeno io, poi non so tu. Vabbè, ancora? Pensi di averla solo tu la passione buttafuoco, senti che tanto. Senti che cosa meravigliosa. Senti. Basta, troppa poesia. Dai. Allora, parliamo di cose serie. Tango e default, ragazzi. Attenzione all'Argentina perché è sulla via di, non so, un altro crack. Comunque è in grande difficoltà. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ordinato a Buenos Aires di pagare il conto a un hedge fund che non aveva accettato di aderire alla ristrutturazione del debito e quindi ha chiesto il rimborso del suo credito. Il conto è di circa 1,5 miliardi di dollari. Se dovesse valere per tutti quelli che non aderirono al programma di ristrutturazione, sono 15 miliardi di dollari, cioè la metà delle riserve argentine, il che condurrebbe il paese ovviamente al default. La presidenta Cristina Fernanda de Kirchner ha detto però che non paga, che quelli sono avvoltoi e che si tratta di un'estorsione. I proprietari dei Tango Bond, quelli gli italiani che l'avevano sottoscritto, ne sanno qualcosa. Bene, che succede a questo punto? Il governo argentino farà un'operazione, si chiama uno swap, per pagare soltanto i sottoscrittori del debito ristrutturato localmente, cioè devono cambiargli l'intestazione. È una roba un po', la diciamo tu, un po' da Magliari, ma insomma dai. Però insomma gli stati la nostra quota rosa, disastro. Bibi, Brigitte Bardot, delle donne più belle di tutti i tempi, compirà 80 anni a settembre e tutti iniziano a celebrarla. Gesù gioco, cantava la divina, sensuale, ribelle. Lei giocava a far innamorare gli uomini, poveri illusi. Invece fa molto sul serio per difendere gli animali, la natura e quindi la vita. Sentite cosa ha detto a Giovanni nell'84. Ma un'armonia c'è fra l'uomo e l'animale all'inizio. L'uomo e l'animale sono fatti per dividere il nostro pianeta e vivere insieme. Solo che l'uomo ha assunto una tale potenza. L'uomo è diventato il re dell'universo, il re del pianeta, e crede di poter vivere da solo sul pianeta, distruggendo tutto il resto. È l'apprendista stregone che finirà col distruggere anche se stesso, soltanto che non lo sa. E se non lo sa. Sara? Ma tu pensi di parlare di calcio solo a tutti i convocati? E questo Brasile che non vince? Invece del Brasile che non vince, che secondo me è molto preoccupato della prestazione di fronte alla sua nazione, vorrei invece dire a Pietrangelo che c'è una buona notizia per lui, perché la Russia ieri ha pareggiato. Quindi, anche insomma, l'Iran. Sono informato. Sono informato. Salamino! Salamini di ritorni! ritorni, tanti ritorni, ma quello che più rallegra è che, come Oronzo Canà, Gianfranco Fini si propone come allenatore, come Berlusconi scende in campo e lancia la convention, cioè la destra che non c'è. Uno dovrebbe dire, giorno 28 giugno a Roma si vedono per la destra che non c'è, e se non c'è uno dice perché deve fare tutto sto manicomio. Detto ciò, io debbo una dedica, perché così come il legionario che ritorna, lui ritorna ancora nella casetta sulla montagna che gli fu natale, pien di gloria, e va dalla vecchietta dicendo ho combattuto in Africa orientale. E quindi dedica, perché il figlio, questo figlio così sincero, ha vinto e combatte ancora. Mamma, ritorno ancora nella casetta, sulla montagna che mi fu natale. Son pien di gloria, amata mia vecchietta, ho combattuto in Africa orientale. Asciuga il dolce pianto, ripeti al mondo intero che il figlio tuo sincero ha vinto e canta ancora. Molti, sono in molti, gli sms che ci chiedono chi era l'ultimo imprenditore che ha parlato nell'inchiesta di Marina Milone. L'imprenditore era Renzo Rosso, ce lo chiede Mary e ce lo chiede Rossella. Salamino. Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse! Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi. Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco. Vabbè, toccava a te, mi sono c'è problema. Vabbè, ma siamo entrambi. Io e Buttafuoco siamo scambiabili, direi. Un giorno facciamo le parti un po' diverse. Impossibile, siete troppo specifici. Allora, Robin Hood, tasse, insomma, c'è un piano del governo. Si può riassumere così: tracciabilità totale. E che è una cosa pornografica? Tracciabilità totale, dillo forte, che forse risolviamo i problemi. Tracciabilità totale. Allora, scontrini telematici, trasferimenti online in tempo reale all'Agenzia delle Entrate, fatture elettroniche, pagamenti tracciabili, ipotesi di una lotteria, udite udite, per chi possiede gli scontrini fiscali. Sono alcuni punti del piano antievasione del governo. 18 milioni di italiani riceveranno il modulo 730 a casa a partire dal 2015. Il piano arriva alla Camera il 30 giugno. Quando faranno questo? Però, cari amici, diminuiranno anche la pressione fiscale, forse saremo un paese un po' più normale. Intanto ci sta provando. Canzoniere. Egli parlava con abbandono, quasi che vedesse lo spirito della donna attenta a farsi concavo come un calice per ricevere quell'onda e volesse riempirlo fino all'orlo. Una felicità. Mix 24. Salamino. La maledizione del cerchio magico. In principio fu la Lega. Rosi Mauro e Emanuela Marrone, rispettivamente sorvegliante e moglie di Umberto Bossi, strinsero il cerchio intorno a lui e ne cavarono fuori il trota. Poi il Cavaliere, e quindi Maria Rosaria Rossi e Francesca Pascale, rispettivamente sorvegliante e fidanzata di Berlusconi, strinsero nel mausoleo il cerchio magico e ne cavarono scodinzolante Dudù. Adesso un nuovo cerchio magico nel teatro della politica italiana. E chi? Dopo la batosta alle europee, Grillo è andato in vacanza, Casaleggio è sparito e il cerchio magico si sta stringendo intorno a Luigi Di Maio, attuale vicepresidente della Camera, e con lui c'è Davide Casaleggio, a conferma della vocazione dinastica della politica in Italia, cioè da Renzo Bossi a Marina Berlusconi. Si arriva dunque al figlio di Casaleggio. Ora, che fanno? Che fanno? Hanno fatto appunto il cerchio magico. E, per esempio, leggiamo da Ciriaco su Repubblica che i pentastellati non ne possono più. Però loro hanno un vantaggio rispetto a Berlusconi, rispetto a Bossi. Hanno Silvia Virgulti, che è una TV coach. Si dice così? TV coach. Insomma, li allena. E noi abbiamo in esclusiva un audio. Adesso pronunciate la formula del cerchio magico. Da oggi parteciperà anche Lullaby. Subito! con le 5 stelle. Io arrivo se accenda. 800 24 00 24, numero verde, aspettiamo il canzoniere. 349 238 6666. Intanto il 28 maggio dell'80 a Milano un comando di terroristi uccide Walter Tobagi. Noi lo ricorderemo. Intanto sentiamo due parole del suo amico Antonio Ferrari. Con Walter a volte abbiamo discusso del problema delle minacce, e Walter era quello che ne aveva ricevute di più. Ma le poche volte che se ne parlava, Walter reagiva in una maniera molto, molto fredda, molto, molto professionale, direi. E dice, purtroppo anche noi siamo in prima linea come tutti, come i poliziotti, come i magistrati. Un giornalista che firma sul giornale più o meno tutti i giorni, beh, è chiaro che può essere un obiettivo. Racconteremo la storia di Tobagi dopo il giornale radio. Professore, buongiorno. Dov'era il canone ieri sera? Tra tutte queste cose serie di cui parlate, vi posso fare una canzoncina? Faccia. Mi piaci, mi piaci, tanto, tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te. Allora, professore, possiamo parlare di sesso? Anche certo, naturalmente, lei sappiamo che frequenta. Allora, perché su Atlantic, questa rete che trasmette soprattutto molto fiction, bella, molto bella, sì. Esaurita Gomorra, passato Berlinguer, è cominciata una serie molto interessante, Master of Sex. Il gioco di parole, perché sono gli specialisti del sesso, ma gli specialisti del sesso sono soprattutto il dottor William Master e sua moglie Virginia Johnson, che negli anni 50 cominciarono le ricerche sulla sessualità, sul piacere maschile e femminile e su quanto succede, insomma, nella fisiologia, nell'atto sessuale, non senza difficoltà, con complicazioni varie. E allora questa serie americana, che ha avuto un discreto successo in America, va ora in onda su Atlantic a puntate, ovviamente. Allora, perché lo segnalo? Perché a differenza delle altre serie americane, voi sapete che io non sono un patito delle serie americane, no? Mi contrappongo un po' alla critica, all'intelligenza un po' modaiola. E qual è l'intelligenza modaiola? Qual è, professore? Ci dica un po' nomi e cognomi. No, non facciamo nomi e cognomi. Diciamo alcuni critici televisivi, anche alcuni registi. Non so se lei sente. Ma lei c'ha dei rivali? Lei ha dei rivali, nessuno l'avrebbe mai detto. E allora, no, cosa succede? Mentre queste, i crime, i fantasy, sono un po' prevedibili, invece quando ricostruiscono la storia, quando fanno i cosiddetti biopic, le biografie, soprattutto ambientate in questi straordinari, misteriosi anni 50, allora gli americani lì sì che sono veramente bravi. E questa serie è molto bella dal punto di vista proprio della ricostruzione storica, del colore, degli atteggiamenti, degli ambienti, l'ospedale, l'università. Quindi insomma direi che il canone è lì e questa serie vale proprio la pena di seguirla. Poi magari le rivelo anche chi sono gli intellettuali, i critici, prima o poi lo rivelo. Dovrà dire. Bene, ma intanto il canzoniere? Io l'ho indovinato. Ah sì, e beh, allora questa volta gliela facciamo dire a lei, professore. Dunque, direi che siamo anche in linea con quello di cui parlavamo, mi sembra un D'Annunzio, mi sembrerebbe il fuoco. È così. Però ha indovinato anche Valentina Scarpa, che fa un tweet: il fuoco di D'Annunzio, giusto? Vabbè, mezzo libro per uno. No, ma il prof è cavaliere, no, no, cedo tutto. Valentina. Ah, lo cede? Ma posso dire che io ho visto un film? Ma tu hai visto? Tu cosa hai visto? Che io ho visto un film che non avevo visto, avevo letto il libro, Il fondamentalista riluttante di Brian Nair. Molto bello, molto molto bello. Sui fatti post 11 settembre. Molto interessante. Posso dire una cosa? Che l'ho vista sul Fatto, una battuta bellissima, un complimento che Squinzi ha fatto a Renzi. Ah, è meraviglioso. Cosa gli ha detto? Gli ha detto: è come una Ferrari, sempre dietro una tedesca. Bellissima, sei vera e bellissima. Bella. Sai, sul fatto. No. Professore, ancora un po' di canone da qualche ancora parte? Ancora un po' di canone, perché sempre su Atlantica è cominciata un'altra serie, Top of the Lake, con una regia prestigiosissima, Jane Campion, ed è cominciata questa storia ambientata in Nuova Zelanda, molto misteriosa. Devo dire che lunedì sera, quando è cominciata, insomma, ha creato anche qualche imbarazzo, perché questa storia di una ragazzina che 13enne che rimane incinta misteriosamente, insomma, proprio la sera in cui si scopriva alcune cose, diciamo, no? Alcune Vabbè. Novità sul caso certo. di Ara, insomma, era un pochettino inquietante, ma senta, dire, professore, le chiedo le chiedo un favore personale. Sì. Può dare un'occhiata al programma di Pascal Vicedomini, sì, che sì, ha farò. Un gran successo in seconda serata su Canale 5, ma, mi dirà la sua. Sì, ma sapete, non posso fare tutto, poi come dice no, tutto poco, so, come certo. faccio a vedere tutte queste cose? Naturalmente. Tutti se lo chiedono. Ma oggi c'è un compleanno, Sara? Eh sì, è importantissimo. Paul McCartney compie 72 anni. Solo 72. Bene. Dopo la pubblicità, come ho detto prima, la storia è dedicata a Walter Tobagi, un giornalista attento che cerca di capire il suo tempo e viene ucciso brutalmente dalle Brigate Rosse. La puntata è stata realizzata da Davide Di Stadio a cura di Marina Milone.